Quello che ho capito io è che è tutta una questione di talento. Per accomodarsi in mezzo a queste cose, a tutte, bisogna riconoscere un talento e farlo crescere. Non tutti siamo capaci, molti, soprattutto in posti come questo, ci rinunciano, lasciano perdere e si accontentano di fare niente, di fare quel poco che viene loro concesso dalla fortuna. La fortuna. In questi posti, se passa, lo fa di sfuggita, non si sofferma, ha sempre fretta, sembra sempre che abbia un altro appuntamento questa fortuna. Se non hai un talento, sei normale in questi posti. Se un talento ce l'hai, la cosa diventa straordinaria. Io a pallone non so giocare, non ho mai saputo giocare. Mio fratello sa giocare ed è anche campione del mondo. Il problema di questi posti non è il caldo. Ah, non è il caldo, che cos'è? E Il problema di questi posti è un altro. quale? Parla, avanti, racconta. Comincia tu. No, secondo me il problema è il caldo. E va bene, Ci sentiamo. sono serate estive durante le quali la gente sta sui balconi, se ha balconi, sulle sedie di legno fuori dai pianterreni, se ha sedie di legno, tutti fermi immobili, con la chiacchiera che riempie di suoni dialettali di altre lingue l'afa delle strade strette del centro storico. Da qualche anno il dialetto ha lasciato sempre più il posto a lingue che vengono ancora più da sud e che si portano dentro i suoni di terre più calde, più povere, più disperate. Una signora si sventaglia mentre controlla che il bordo del vestito comprato dal mercato non le scopra troppa cellulite. Un uomo si asciuga le gocce di sudore prima che gli cadano sul bianco rigato dalla canottiera. Alcuni bambini giocano a pallone e parlano tutti lo stesso dialetto, anche se nati più a sud. Questi hanno imparato subito la lingua del centro storico. Alle 10 di sera il caldo, quella sera là, non accennava a diminuire e l'afa si faceva ancora sentire sulle pelli colorate delle persone. Qualcuno cercava un po' di ristoro nel vento della piazza, che spirava sempre più forte che nelle vie strette. Era una lenta processione di sedie e persone, dalle case allo slargo nel centro storico. Come ogni sera, anche stasera la piazza dopo cena si era riempita di colori diversi, lingue diverse, tutte raggruppate a fazioni. All'angolo a destra gli italiani, al centro gli albanesi, più in là i marocchini, ancora nigeriani, polacchi, indiani, libici. Detta così, sembra un esempio di integrazione, ma non è vero, non c'era mai stata integrazione. Questa era soltanto una parola sbandierata dai sondaggi e dalle televisioni. Nella vita vera, almeno in quella piazza di paese, si era faticosamente raggiunta la sopportazione, ma non si era mai arrivati a parlare di integrazione. La povertà accomunava tutti, chi più, chi meno, e questo era l'unico collante che fino ad allora aveva evitato fatti spiacevoli di cronaca nera. Ciascun gruppo aveva i suoi affari illeciti e quando si era litigato sempre si era trattato di incomprensioni legate agli stessi interessi sovrapposti. La droga la vendono gli italiani fino al bar, dal bar in poi è territorio di albanesi e a ogni sfioramento e a ogni sforamento del territorio, per una dose venduta al di là del bar da un italiano si poteva arrivare alle mani. Quella sera in piazza un polacco stava aspettando l'arrivo di un marocchino che era stato sorpreso a rubare da un negozio che era in zona polacca. Il furto sarebbe spettato ai polacchi e un marocchino non doveva permettersi di rubare agli altri. Quando il marocchino arrivò in piazza, il polacco gli si fece vicino, dissero delle cose ad entrambi incomprensibili e alzando sempre più il tono della voce arrivarono in fretta alle mani. Faceva troppo caldo per intervenire a separarli, se le sarebbero date di santa ragione, poi al colmo del sudore avrebbero smesso. Ma questi continuavano a sudare allegramente, a darsene altrettanto allegramente, fino a quando un libico intervenne per tentare di separarli e tenne forte il marocchino per non farlo avanzare ancora. Ma quando il polacco vide che il marocchino era ben tenuto dal libico, invece che smettere, si avventò con maggior forza su di lui, menando pugni come capitava. E capitò che un pugno finì dritto sul naso del libico, che a quel punto reagì contro il polacco. Due contro uno, il fratello polacco del polacco non poté fare a meno di difendere suo fratello e così quattro persone se le davano in piazza. Ai marocchini parve che due polacchi e un solo marocchino fosse una cosa ingiusta e si lanciarono in due a soccorrere il loro connazionale, di conseguenza due libici e due marocchini e due libici e due polacchi, fino a quando la rissa diventò grossa, almeno una ventina di persone se le stavano dando, saltando come cavallette nel caldo della piazza e senza controllo andarono a finire troppo vicini agli italiani e nella foga colpirono con un calcio un vecchio seduto a godersi la faccenda e a ridere. Alla vista del colpo inferto al vecchio, una decina di italiani decisero che andava assolutamente tenuto alto l'onore di patria e si lanciarono anche loro nella mischia. La piazza palpitava di pugni, schiaffi, sputi e calci e la rissa finì come finiscono le risse, da un momento all'altro, senza un motivo apparente. La rissa finì come finisce tutto, da un momento all'altro, senza un motivo apparente. Non si poteva continuare così. I capi delle varie fazioni decisero di incontrarsi l'indomani per prendere de delle decisioni definitive. L'incontro si tenne a casa dell'italiano. Tu ci sei andato? Io ci sono andato. Ma non ti fa schifo stare in mezzo a quella gente? Ma che gente, sono persone che stanno da tutte le parti. Sono persone che fanno schifo e tu sei come loro. Sì. La riunione mise subito a fuoco il problema. Non possono comandare tutti. Bisogna trovare un modo per mettere ordine nel comando. Uno propose l'estrazione annuale del gruppo di comando. Ma la proposta fu bocciata. Non si poteva decidere per questione di fortuna, anche perché la fortuna qua ha sempre fretta. Dopo una lunga discussione, alla quarta bottiglia di vino fresco che veniva servita dalla grassa moglie italiana dell'italiano, si decise: facciamo un campionato mondiale di calcio. Chi vince il mondiale comanda per un anno, fino al prossimo campionato mondiale. Si mise la proposta ai voti, unanimità. Il primo campionato mondiale di calcio clandestino si sarebbe giocato dopo 2 settimane, il tempo di organizzare i gironi e le scommesse. Tu non ne sai niente di quello che è successo. Queste sono soltanto cose di contorno, ma tu in fondo non sai niente. E se le sai tu le cose, e dille. Il campo scelto per gli incontri fu Largo Caverne. Le porte furono rubate da un campo sportivo di un paese vicino. Del furto delle porte si occuparono albanesi e polacchi, del trasporto gli italiani, del posizionamento nel Largo Caverne gli indiani. Bisognava trovare un arbitro. Ciascuno doveva provvedere al suo completo sportivo. Le scommesse erano libere, ognuno avrebbe preso le sue e le avrebbe gestite. Quando il padre indiano tornò a casa e disse a suo figlio di organizzare una squadra della nazionale indiana, lui si mise subito al lavoro. Sua figlia e sua moglie avrebbero provveduto a cucire le magliette e i pantaloncini. Sua figlia era di una bellezza straordinaria, non tanto per l'India quanto per gli occhi. Non erano occhi che uno poteva dimenticare. Se ti guardava, non ti guardava soltanto, ti annegava negli occhi. Io non lo potevo immaginare che una donna potesse annegarti senza che ci fosse acqua. Lei annegava. Quando la vidi per la prima volta fu questa la sensazione, come una specie di apnea, un respiro che non riuscivo a riprendere, come essere finiti sott'acqua insieme alle balene. Fui contattato per giocare nell'Italia. Da me. Tu sei quello che sei perché l'ho fatto io il tuo nome. Vuoi vedere che ti devo pure ringraziare? Avevo giocato nelle giovanili e in paese si sapeva che un tempo ero stato bravo. Adesso era qualche anno che giocavo soltanto il sabato con gli amici e non avevo ancora perduto completamente lo smalto. Tutti noi abbiamo sempre sognato di diventare calciatori professionisti, ma essere convocati dalla nazionale italiana di calcio non lo avevi sperato mai nemmeno tu. Vabbè, si trattava di una nazionale clandestina, in un campionato del mondo clandestino, ma seppure in questo piccolo pezzo di mondo che abitiamo, tu rappresentavi l'intera nazione, solo soddisfazione. No? Quando la vidi per la prima volta fu in una stradina del centro storico. Qualche mese prima di questo mondiale passeggiavo per prendere dell'acqua dalla fontana e portarla a casa e all'angolo di una strada laterale mi fermai a respirare un po' e a togliermi di dosso il caldo. Lei uscì dal pian terreno nel quale abitava, si fermò, si prese i capelli raccolti in una coda in mano e li poggiò sulla spalla destra. Nel farlo voltò la faccia e gli occhi verso di me. Fu così che annegai. Mi guardò per qualche secondo, solo il tempo di farmi conoscere meglio gli abissi, poi tornò in casa. L'India non mi fu mai tanto vicina come in quel momento. Cercai di sapere come contattarla. Il fratello e il padre non mi avrebbero permesso di vederla da solo e allora, in attesa di trovare una buona scusa per parlarle, andavo sempre più spesso a riempire l'acqua che da quel giorno non mancò mai più a casa mia. Ogni volta che arrivavo all'angolo di quella strada mi fermavo un po' per provare a vedere se il miracolo poteva nuovamente accadere, ma niente, non successe niente. Solo dopo una settimana, eccola, nuovamente fuori di casa, stavolta seduta su un gradino. Mi guardò di nuovo e stavolta sorrise. Avevo le damigiane in mano, i pantaloncini, una maglietta addosso e non respiravo. Il cuore non aveva preso a battere più forte, aveva semplicemente smesso di battere. Sì, non guardarmi più, pensai, e non sorridere, ma lei continuava. Così mi uccidi, pensai, ma lei continuava. La chiamarono da dentro casa, rientrò. Potevo provare a trattenermi, ma non ce la feci, svenni. Mi portarono a casa e mia madre disse: da domani a riempire l'acqua ci va tuo fratello. No, dissi, ci vado io. Ma se tu non ti senti bene, ci vado io, ho detto, chiaro? Va bene, noi facciamo le squadre, ma l'arbitro chi lo fa? Beh, l'arbitro deve essere di un'altra nazione. Dove lo andiamo a prendere? La Svizzera. È neutrale. Ma non ci sono immigrati svizzeri, perché dalla Svizzera dovrebbero venire qua? Un sudafricano? No, non ne conosco. Maltese? Non ne stanno. Peruviano? L'unica che conosco è donna, in questo momento sta in Spagna. Costa d'Avorio? Non ne stanno. Albanese? Ma se sta la nazionale albanese, l'arbitro deve essere diverso. E chi mettiamo? E che ne so? Non dobbiamo pensare alle nazionalità. Non ne troveremo uno da solo. Non ci sono immigrati che vengono da soli. Quelli vengono perché ci sta il fratello, lo zio, l'amico, ma da soli non ci vengono. Niger? Ma se stanno, fanno la squadra. Ho detto che non è questione di nazione, che è questione di mestiere. dobbiamo trovare uno che fa un mestiere sopra le parti, un vigile urbano, ecco. Un vigile urbano può essere in divisa, per forza in divisa, sennò che vigile urbano è? E a chi possiamo chiedere? Lo so io a chi possiamo chiedere, lo so io. Fu scelto per arbitro tale Nunzio Zagaria, maresciallo dei vigili urbani in pensione. Segnaline due ausiliari del traffico, Mario Ieva e Lorenzo Troia. Quest'ultimo ne avrebbe sentite di offese e allora si ritirò. Al suo posto fu convocato Riccardo Lorusso, di professione guardia campestre. Le porte furono rubate durante la notte tra il 16 e il 17 di giugno. Furono portate in largo caverna e montate. La mattina ai bambini non sembrava vero di avere delle porte di calcio a disposizione. Ne diventarono i custodi. Fu tracciato il campo e fu messo dai delinquenti che avrebbero scommesso un divieto di sosta permanente, che fu rispettato da tutti. Il campo era piccolo per giocare 11 contro 11. Fu deciso che le squadre sarebbero state composte da 7 titolari e 5 riserve, massimo 3 cambi a partita, 2 tempi regolamentari da 45 minuti ciascuno. Il vigile urbano Zagaria chiese: ma voi l'autorizzazione ce l'avete? Gli fu risposto di sì, del sindaco, del prefetto, del comandante dei carabinieri, del questore e dell'agente di Largo Caverna. Zagaria capì che era meglio non insistere. La notte tra il 18 e il 19 giugno furono rubate 126 transenne, bastarono 16 ragazzine e 8 tre ruote. Si fece transennare il recinto del terreno di gioco per evitare che il pubblico entrasse in campo. Il 25 giugno c'era la prima partita, Italia contro Albania, campionato del mondo clandestino, eliminazione diretta. L'indiana non la vedevo più. Non la vedevi perché aveva da fare. E che ne sai tu che aveva da fare? Stava sempre in casa perché avevano deciso che a calcio, non essendo bravi, almeno i completi dovevano essere bellissimi. Li stavano cucendo a mano, uno per uno, usando delle stoffe tagliate da 10 tappeti rubati. Io volevo vederla perché da qualche giorno, sarà capitato a tutti, non facevo che pensare a quegli occhi d'India. Me li sognavo di giorno e a furia di camminare davanti a casa sua stavo scavando un solco di sudore e speranza. Ma lei, niente, non riuscivo a vederla. Fino a quando, un giorno, me la ritrovai alla fontana. Le dissi: posso? Cosa? Ti riempio le damigiane? No, faccio io. Mi voltò le spalle e non mi guardò più. Mi sembrò di averla offesa, di averle fatto qualche torto a rivolgerle la parola in quel modo. Io non sapevo come fossero le famiglie indiane dal punto di vista amoroso, cioè non sapevo se anche lì era come da noi, dove prima di presentarsi ai genitori bisogna almeno aver fatto due gemelli, oppure se la tradizione volesse altro. Non lo sapevo e intanto mi tenevo lei di spalle, che aveva rifiutato il mio aiuto, e con la sensazione amara di averla offesa. I completi degli indiani furono provati da tutta la squadra una mattina e in casa sembravano veramente bellissimi. Ma c'era un problema. Le stoffe usate erano piene di riflessi e sotto il sole diventavano abbaglianti di luce. Fu deciso però dall'allenatore che andavano bene così, perché avrebbero colpito negli occhi degli avversari e segnare sarebbe stato più semplice. Gli unici a non aver trovato un allenatore erano stati i libici. Si erano contati ed era risultato che in paese i libici adulti erano pochi, soltanto 22 persone, e di questi solo 8 con un po' di talento per il calcio. L'allenatore dei libici fu così Peppino l'Africano, un signore scuro di carnagione, capo ultras della squadra locale. Di calcio non capiva niente nemmeno lui, ma aveva in mente una serie di cori fenomenali. La voce del campionato del mondo arrivò al capo dei cinesi. Voi non mi avete detto niente, e avete ragione, ce ne eravamo dimenticati. Noi in paese siamo 26.000, come avete fatto a dimenticarvene? Possiamo fare 500 squadre, una ne dovete fare, basta una, siete iscritti, giocate il 29 giugno, contro chi? Contro il Brasile, Cina-Brasile, eh? Noi facciamo culo a Brasile, e a quelli non gli fate niente di nuovo, sono tutti travestiti. Per quanto riguarda l'Italia, avevamo fatto una buona squadra, se si fa eccezione per il portiere. Avevamo accettato che le magliette, i pantaloncini, scarpe e borsoni li comprasse il proprietario di una macelleria che faceva da sponsor. Le maglie azzurre avevano sul davanti la scritta «Carni scelte». Il macellaio aveva anche imposto, vista l'offerta, che lui stesso giocasse in porta. Scoprimmo solo più tardi che era stato un fan sfegatato di Zoff e aveva chiamato suo figlio Dino. Pesava oltre 110 kg e il suo unico talento era la posizione sul tiro avversario. Il tuffo e l'uscita gli difettavano. Dopotutto, avevamo i borsoni, potevamo pure tenerci un portiere così. Gli albanesi giocavano bene, non ce l'aspettavamo. Non erano come l'Argentina o il Brasile, ma giocavano tutti i palloni. Io stavo in campo e ogni tanto lanciavo un occhio fuori tra la gente che nel frattempo era venuta a vedere la partita, tutta intorno alle transenne. La voce del campionato mondiale clandestino si era sparsa in tutto il paese. Già la prima partita era tantissima la gente curiosa di vedere quanto avrebbe fatto l'Italia. Erano curiosi di vedere tutte queste nazionali strane, il Sudan, l'Albania, la Libia, nazioni che non avrebbero mai avuto la ribalta di un vero campionato del mondo, ma che nella clandestinità, e solo nella clandestinità, avevano gli stessi diritti delle altre nazioni. Verso il quarto d'ora del primo tempo segniamo. Un cross dalla sinistra in area di rigore per il nostro centravanti che salta di testa e la mette al paletto, la parte bassa del palo per intenderci. 1-0. Dal bordo del campo vennero non so quante grida e io mi voltai e cercai con lo sguardo se magari vedevo quegli occhi indiani a guardare la partita e guardarmi, ma niente, non la vidi, niente, non c'era. Non c'era perché stava a casa a finire le maglie per la prima e ultima partita dell'India, che si sarebbe giocata in serata, con la luce dei lampioni e le luci affittate, per così dire, da uno che faceva concerti nelle piazze. Beh, affittate perché non gliele si volle rubare, allora lo si costrinse a stare lui insieme alle luci. La corrente elettrica fu presa da un palo di illuminazione pubblica, rubata anche quella. Dopotutto, un campionato clandestino non poteva che essere così. E la partita finì 3-1 per noi. Io segnai il secondo gol. E per la prima volta capii che di solo calcio non è importante vivere. Per la prima volta mi venne in mente che anche quel gol, fatto senza che lei lo vedesse, valeva niente, come se non lo avessi mai segnato, come se lei, guardandolo, desse verità al gol, desse verità a me e a tutto quello che facevo. E senza lei a guardarmi, avevo l'impressione di esistere poco anch'io, come se non fosse vita piena, come se fosse un'attesa di quando mi avrebbe visto e di quando io avrei visto lei. La partita successiva sarebbe stata contro la vincente tra India e Polonia. Non restava che aspettare la sera per sapere chi si sarebbe qualificato. Nessuno poteva saperlo, ma grazie alle conoscenze che avevo, dalla fine di quella partita tutti i giocatori diventarono i beniamini della folla. Fu tutto per merito mio. Per questo venni nominato accompagnatore ufficiale della nazionale. Non potevamo più nemmeno pagare una bottiglia d'acqua minerale. Tutto era offerto. E si fece per la prima volta quel che diventò presto un'abitudine. Una signora preparava parmigiane e pizze di patate per la squadra e noi dopo la partita eravamo obbligati ad andare a mangiare perché diceva la signora, dopo tutto quello sforzo, una cosa, ve la dovete pur mangiare. Fu per questo che durante quel campionato del mondo, invece di dimagrire, tutti quanti ingrassammo di qualche chilo. La partita India-Polonia cominciò alle 9 in punto. Nunzio Zagaria arbitrava la seconda partita del giorno e non riusciva più a correre come avrebbe voluto. Arbitrò quindi da fermo, cercando di vedere quel che poteva e fidandosi delle opinioni del pubblico. Fu per questo che dette un rigore inesistente alla Polonia dopo mezz'ora di gioco. Le maglie luccicanti dell'India sotto la luce dei riflettori certo non aiutavano l'arbitro a vedere per bene le azioni. Era un continuo di riflesso di luce. Zagaria guardava tutto con gli occhi semichiusi. Ma che belle maglie, dicevano le signore a bordo campo. Sembra una sfilata di Valentino. Quelle maglie così, nemmeno al mercato la mattina presto si trovano. A fare fallo per il rigore fu proprio il fratello di lei. Ancora una volta, stando anch'io dietro le transenne, provai a trovarla in quella folla curiosa di vedere come giocasse a pallone l'India. Dal campo l'avrei vista subito, ma dall'esterno non era così semplice. Girai un paio di volte intorno al perimetro disegnato dalle transenne, fino a quando la vidi, finalmente, di spalle. I capelli raccolti ancora in quella coda che teneva la prima volta tra le mani e poggiata sulla spalla sinistra. Il collo leggermente sudato, scuro sotto i capelli neri. E sapevo che sarebbe successo. Lo sapevo e infatti successe. Si voltò, quasi sentisse la mia presenza. Si voltò e mi vide. Mi vide con quegli occhi suoi e poi tornò a guardare la partita proprio un attimo prima che il polacco prendesse la rincorsa e segnasse. Stetti lì a vedere lei prima della partita, lei prima di tutto. Fino a quando, l'India ancora perdendo 1-0, lei mi chiamò accanto a sé. Fu un camminare senza respiro, fino a poggiare i gomiti sulla transenna, in maniera che sembrassi rilassato, tranquillo, ma chissà che cosa sembravo. Mi chiese, secondo te che cosa deve fare la squadra? Le dissi di aspettare, di farmi vedere qualche azione. Giocavano male. Sembrava proprio che col calcio non c'entrassero niente. Avrei detto che dovevano ritirarsi, ma in campo c'erano suo fratello e la sua nazionale. E allora dissi, devono allargare sulle fasce, hanno un attaccante alto, devono crossare. Che significa crossare? Fare dei cross. Che sono i cross? La guardai e non seppi più niente di cross, attaccanti, calcio, fasce laterali. Lei invece se ne andò verso la panchina, disse qualcosa a suo padre, che disse qualcosa all'allenatore, che disse qualcosa ad un giocatore, che fece un'apertura sulla fascia, come avevo detto io, e dalla fascia laterale ci fu un cross, e dal cross un colpo di testa dell'attaccante e l'India pareggiò. Lei mi avrebbe abbracciato se non fosse stata educata e indiana. Io l'avrei sposata se non fossi stato uno stupido. Il pareggio però non era un risultato contemplato. Si continuò quindi a giocare ad oltranza fino a quando l'India subì un altro gol e la partita finì con l'eliminazione dell'indiana. Le magliette della nazionale furono vendute ad una signora che le scucì tutte e ne fece un nuovo, bellissimo, enorme tappeto luccicante. Le partite non erano soltanto una maniera di prendersi il potere e gestirlo per un anno. Erano anche un affare momentaneo. derivante dalle scommesse clandestine. Ciascuna fazione si era organizzata per raccogliere le proprie e finì che un po' tutti nel centro storico smisero di tifare per la propria nazionale e presero a tenere per la squadra su cui avevano scommesso. L'Italia, noi, eravamo tra i favoriti e la nostra vittoria si dava a poco, bisognava scommettere 10 euro per vincerne 12, non era conveniente. Scommettere invece su squadre come la Libia aveva un senso economico ben più importante. Il problema fu che anche alcuni giocatori direttamente impegnati in campo cominciarono a scommettere. E non scommettevano sempre sulla propria vittoria. Si poteva dare il caso che qualcuno scommettesse contro la propria squadra per guadagnare di più. Un algerino, per esempio, che aveva scommesso contro l'Algeria alla fine della partita contro il Senegal, rimanendo ancora il punteggio sullo 0-0, inventò un'autorete che sembrò subito incredibile a tutti, esagerata, perché tirò forte, deciso, all'angolo alto verso la propria porta, trasformandosi così da difensore algerino in attaccante senegalese e dette la vittoria ai suoi avversari. Vinse molti soldi, ma fu pestato a sangue prima di uscire dal campo. Fu per questo che i giocatori si dettero una regolata e per non rischiare di prendere pugni in faccia smisero di scommettere. Gli altri, invece, scommettevano forte. Alcuni davano l'Italia vincente e avevano scommesso somme importanti su questo evento. Altri, invece, giocavano la scommessa partita dopo partita. Il fratello dell'Indiana mi fermò per strada. «Ti piace mia sorella?» «Mi piace molto». «E non la puoi vedere, lo sai?» «Lo so. A meno che cosa?» Io devo fare una scommessa importante, una scommessa di tutto quello che ho, e la devo fare sull'Italia vincente. E allora, io a mia sorella te la faccio vedere, ma solo dopo che avete vinto il mondiale e che io ho vinto la scommessa. E se poi non vincete, mia sorella te la puoi sognare. Ci pensai un momento. Lui mi guardava e io non sapevo se accettare questa possibilità. Perdere il mondiale sarebbe significato non vederla mai più, vincerlo poteva dire invece uscire con lei qualche volta e poi basta. E allora dissi: «Si può fare, sì, ma mi devi far uscire con tua sorella almeno una volta. Quando finisce il mondiale?» «No, subito, stasera stessa, e domani ti faccio sapere se accetto». «Va bene, vieni a prenderla alle 8, ma alle 10 dovete stare a casa, a mezzanotte, alle 11:30». «No, alle 10:30, no, alle 11:30, alle 11 e non ne parliamo più, va bene. Se a mia sorella succede qualcosa, non succede niente, ma se succede, non ti preoccupare». Quella sera mi preparai e provai a non esagerare col profumo. Mi hanno sempre dato fastidio i profumi troppo forti e non mi piacque arrivare sotto casa di lei e vederla uscire tutta colorata, meravigliosa, con gli occhi leggermente truccati, ma troppo profumata. Il padre mi guardò come si guarda un calciatore povero che vuole rubarti la figlia. Il fratello non disse niente, solo mi ripeté con le mani l'orario, 1:01, le 11. Chi te la prestò la macchina? Tu, me l'hai prestata tu, va bene? Il titolare dell'Italia senza macchina. Una Seat Ibiza nera. Beh, che vuoi dire? L'avevo lavata per bene, anche da dentro. Era già pulita. Ma che pulita che faceva schifo. L'avevo pulita, ma non avevo fatto in tempo a riparare la marmitta che faceva un rumore infernale, come di trattore. Sulla marmitta hai ragione. Su tutto ho ragione. Sulla marmitta, non t'allargare adesso. Quando misi in moto, lei sorrise e io invece le dissi: «Non è mia, è di quel cornuto di mio fratello che la tiene male». Partimmo e andammo verso il mare. Ci arrivammo qualche minuto prima dell'ora magica, in cui la luce del giorno lascia il posto al fresco della sera, lentamente cambiano i colori, passando tra gli azzurri e poi si colorano di scuro e di luci piccole in cielo, davanti, nel mare, alle spalle dei paesi. A posto, è arrivato il poeta, è arrivato. Perché sei uscito con me? Chiese lei. Non lo so. Perché sono indiana? No, non tanto per l'India quanto per gli occhi. Che cosa hanno i miei occhi? Non lo sai che cosa hanno? Lei smise di guardarmi e voltò la testa verso il mare. Era il posto perfetto per perdersi, dimenticarsi di tutto, lasciarsi annegare. «Tu sei italiano, mi devi lasciare stare». «Perché? Noi non abbiamo niente, non abbiamo soldi, mio padre non può darmi nemmeno questo vestito che di mia madre. A me non mi interessa quello che può darti tuo padre, ma per me è importante, per noi lo è. Nemmeno io posso darti niente, a parte l'Ibiza di mio fratello». Ridemmo e ci voltammo verso la macchina che sembrava uno spaventapasseri rotto nel parcheggio davanti al mare. Intorno all'Ibiza altre macchine, tutte più belle, provavano a sminuirne la particolarità. «Io sono come la tua macchina», disse lei. «Ma io adesso le aggiusto la marmitta», risposi. Ridemmo ancora e furono le 11. L'indomani il fratello mi chiese: «Allora, accetti?» «Accetto», dissi io. «Scommetti tutto sull'Italia, divento campione del mondo e mi metto con tua sorella». Era arrivato il giorno di Cina-Brasile. Intorno alle transenne si erano assiepati tutti i cinesi presenti in paese. Dove stessero questi cinesi negli altri giorni dell'anno? Nessuno poteva saperlo. Arrivarono con le loro facce sorridenti e si misero tutti in prima fila. Brasiliani? No, quelli non erano tanti. Gli unici facevano davvero il mestiere del travestito e i soli 12 professionisti della zona si erano messi tutti in campo senza avere nessun tifoso. Si vide da subito appena i brasiliani entrarono in campo con i loro completi aderenti e provocanti, che i cinesi erano molto sensibili al fascino slanciato e riguardoso dei loro avversari. D'altro canto, i brasiliani trattavano i cinesi come dei bambini da sculacciare e i cinesi sembravano ben contenti. Altro piccolo dettaglio, i brasiliani giocavano a pallone veramente bene e i cinesi correvano e basta. Fu in una mischia su un calcio d'angolo che uno dei cinesi colse l'occasione per prima cinturare il suo avversario solo col braccio destro, poi per tentare di bloccarlo anche col sinistro e poi finendo per abbracciarlo con passione e trasporto. Con gli occhi chiusi e le braccia strette intorno a quel corpo straordinario, provava a godersi sensazioni fisiche oltre ogni partita e oltre ogni rigore. Ma in campo, in area, quelle passioni bisogna saperle trattenere. Nunzio Zagaria fu costretto a fischiare rigore per il Brasile, un rigore provocato da troppo amore. Il brasiliano capì e invece che arrabbiarsi col piccolo cinese si abbassò, gli prese la testa fra le mani e lo baciò sulla fronte. Il cinese fu sostituito. Il Brasile vinse la partita per 7-0, diventò la squadra favorita per la vittoria. Venimmo a sapere di una marocchina che era scappata di notte col difensore centrale della Polonia proprio il giorno prima di Italia-Polonia. Per noi un ottimo vantaggio. Era un bravo giocatore, alto, forte, e per questo la marocchina non se lo lasciò sfuggire. Li videro scappare verso le 3 di notte su una macchina rubata da lui. La macchina fu poi ritrovata intatta in stazione, da dove probabilmente presero il treno che li fece sparire alla vista del paese. Anche un attaccante serbo andò a chiedere la mano di una bellissima nigeriana, ma fu accolto dal padre di lei con male parole. «Tu, piccolo bianco, non hai nessun diritto di sposare la bellezza di una nera». Lui non si rassegnò e durante la partita della Nigeria andò in casa di lei e si barricò dentro. Stette chiuso con lei per 2 giorni e uscì solo quando il padre acconsentì alle nozze. Da una casa del centro storico una notte si sentirono urla e birre che si toccavano. Era la Libia che aveva invitato, pagando, una compagnia di prostitute ucraine poco interessate al calcio ma garantite dalla paga dello straordinario notturno. Che fosse amore o quell'integrazione di cui tutti avevano sempre parlato, questo io non lo so. Sta di fatto che in paese, in quei giorni, capitavano unioni fino ad allora impossibili, come se la gente si guardasse per la prima volta, come se si scoprisse in un solo momento che gli occhi, e non il resto, segnano l'appartenenza alla razza umana. Noi giocammo con la Polonia senza difensore centrale. Vincemmo 4-2 ed eravamo in semifinale. Avremmo giocato contro il Brasile, i travestiti più forti del mondo. Il giorno prima del classico Italia-Brasile, il fratello dell'indiana venne a trovarmi. A te ti piacciono le femmine? Sì, dissi io. E allora a questi brasiliani che gli fate? E che gli dobbiamo fare? Tu ricordati, se diventi campione del mondo allora stai con mia sorella. Io ho scommesso, non facciamo scherzi. Io non me ne vado con i travestiti, speriamo. Ah, una cosa te la devo chiedere. Cosa? Stasera voglio vedere tua sorella. Tu stasera non sei campione del mondo. O me la fai vedere o domani col Brasile perdiamo. Tu sei un bastardo e tu sei un cornuto. Va bene, ma alle 10 me la porti a casa. Alle 11, 10:30. Alle 11 o perdiamo. Va bene, alle 11. Lei fu sorpresa dal silenzio della Seat Ibiza. Avevo fatto cambiare la marmitta. Non potevo permettere che mio fratello, titolare dell'Italia, se ne andasse in giro con la marmitta rotta. Il meccanico non aveva voluto che pagassi, ma mi fece promettere che mio fratello avrebbe segnato un gol su punizione, perché l'Italia, così aveva detto, l'Italia è l'Italia. Che strano sguardo aveva lei, che strano sguardo. Non disse niente fino a che non parcheggiai davanti al mare. Lì scese dalla macchina e stette ancora zitta. «Che hai?» le chiesi. «Niente. Avanti, dimmi che hai. Tu mi lasci? Io? Tu? Ma se non stiamo nemmeno insieme, lo dici tu che non stiamo insieme», disse lei. «Perché stiamo insieme?» chiesi. «Certo, se no mica uscivo con te». Io non lo so perché succedono cose come questa. Io non so dire che cos'è l'amore e come si forma. Avrei bisogno di uno schema. E lo schema è questo. Allora, la difesa sta tutta la vita a dire attenzione a quella, che se quella segna non recuperiamo più. Chiede aiuto al centrocampo, che capisce il pericolo e si mette a difendere pure lui. E passano gli anni interi così, con la difesa e il centrocampo, che riescono sempre ad evitare tutto. E si sta bene, si sta tranquilli, perché l'amore non ha spazio. Può crossare, può provare ad avanzare centralmente, può fare quello che vuole, ma il terzino scala, il mediano copre e non succede niente. Niente succede fino a quando un giorno un attaccante, smarcato da un rimpallo casuale, si ferma e scopre che è molto più bello rischiare che difendere. E lo fa scoprire a tutti. E allora l'amore fa una finta, uno schema provato in allenamento, e con 2 passaggi al limite dell'area di rigore, segna. Così funziona l'amore. E così funzionò per me. Stavamo insieme e io non lo sapevo ancora. Lei mi aveva annegato negli occhi e io non sapevo come reagire, senza salvagente, nemmeno i braccioli, senza maschera, senza pinne. Nuotavo e mi ero perso, in balia di lei, e lei invece preoccupata di tutto. Non mi lasci adesso, non mi lasci adesso, no, non ti lascio adesso, non ti lascio. Quello è il programma, se l'era fatto bene, non mi lasci, mi sposi, mi prendo la cittadinanza italiana e ma poi... stai zitto. Va bene, sto zitto, va bene. L'Indiana venne a vedere la partita. Intorno alle transenne la folla degli italiani, tra scommettitori e semplici appassionati, voleva vedere come ce la saremmo cavata con i travestiti. Forse erano molti di più quelli che volevano vedere i travestiti nelle maglie strette e nei pantaloni aderenti. Devo dire onestamente che facevano un certo effetto vederli così conciati. Fecero effetto soprattutto su Michele Jeva, un difensore che faceva il meccanico, che appena in campo aprì la bocca, sgranò gli occhi, mentre un avversario gli diceva «Vuoi toccare, gioia mia?». Io non mi facevo distrarre, i travestiti mi interessavano più come fenomeno sociale che come esperienza personale. Io avevo l'India e non mi interessava altro. La guardai appoggiata a una transenna, con i capelli sulla spalla sinistra, e lì non mi sorrise, forse per non deconcentrarmi. Cominciammo a giocare, e subito le grida da bordo campo si fecero sentire. Nunzio Zagaria avvertiva il peso emozionale della partita, ma era e doveva essere sopra le parti, come ogni buon maresciallo dei vigili urbani in pensione. Fischiò, quindi, un rigore inesistente per noi. I rigori li tiravo io. Andai sul dischetto e si fece silenzio tutto intorno al campo. Si sentivano soltanto i gridolini del cinese baciato in testa dal travestito, che diceva lo para, ma fu subito messo a tacere da un pugno in testa del contadino Tonino. Presi la rincorsa, di destro sulla sinistra del portiere. Ottimo rigore, gol, 1-0 per noi. All'intervallo vincevamo ancora 1-0. Il nostro portiere macellaio aveva respinto un tiro a botta sicura con l'intera faccia, aveva ancora il viso rosso e il naso rotto. Vaffanculo al Brasile, diceva, mentre si tamponava la narice sinistra. «Sto tutta sudata», disse invece un travestito a Michele Jeva. Lui fece finta di non cogliere la provocazione, ma poco dopo rincorse il travestito e gli disse sottovoce «alle 10:30 a Largo Fontana, quant'è? Poi facciamo tutto un presso». La partita ricominciò e i brasiliani giocavano veramente meglio di noi. La palla a un certo punto andò fuori, proprio vicino alle transenne dove c'era l'Indiana, e un brasiliano, una volta raccolto il pallone, la guardò e disse «tu ti sei messa con quello?» e rise. «Non doveva farlo, no, non doveva». Alla prima palla che toccò feci quel che avrei sempre voluto evitare. Ricordai di quello che mi avevano insegnato in un allenamento di tanti anni prima. Andai verso l'avversario che mi aveva deriso e gli poggiai un piede con i tacchetti sul dorso del piede. Sentirono tutti l'urlo del brasiliano e io sentii il rumore delle ossa sotto il mio piede e lui rimase a terra. Il brasiliano non fu sostituito perché mancavano di altri giocatori in quella partita. Fu così che senza nemmeno essere ammonito potei continuare a giocare. Italia contro Brasile finì 1-0 per noi. Eravamo in finale. Quando alla fine della partita incontrai l'Indiana e le chiesi di uscire insieme quella sera stessa, lei mi chiese «perché gli hai rotto il piede? Non dovevi?» e se ne andò. Mi sentii come quella volta alla Fontana, quando voltandomi di spalle mi aveva escluso da tutto. E da quella volta tu dovevi capire qualche cosa in più, tutti i piccoli segni che uno deve saper interpretare, altrimenti poi succede quello che è successo a te. Era semplice capire cosa stava succedendo. Lei doveva rimanere in Italia e per farlo aveva poche maniere. Una di queste era trovare qualcuno da far innamorare e provare a sposarlo, l'allocco. Ecco, così lei sarebbe diventata cittadina italiana e chiuso. No, non è mica il primo caso. Io mi ricordo di un ragazzo che era tornato da una lunga vacanza in Ucraina, anche lui, con una ragazza bellissima, infinitamente più bella di quanto lui potesse mai sperare di avere accanto. E già questo, ad uno, dovrebbe farlo insospettire, invece quello no. Partono dall'Ucraina e vengono qua. E lei, prima di partire, dice a lui: «Senti, può venire con noi anche mia cugina? È come una sorella per me. Ti prego, non dirmi di no». Lui non dice di no. E anche questa cosa, voglio dire, ti dovrebbe far insospettire. Ma tu no. Torni. E che ti metti a fare? Per carità, con una compagna come quella, la cugina ancora più bella, cedi la tentazione alla richiesta delle due ragazze di aprire un bar. E questo ragazzo si fa un bel mutuo, si fa prestare i soldi e si mette a lavorare nel bar. All'inizio va bene, tu lo sai che i clienti, pur di essere serviti da quelle due bellezze, possono sopportare anche di aspettare un po' di più ai tavoli affollati, sempre pieno di gente, tanto che in 2 anni questo si è tolto quasi tutti i debiti e ha aperto un conto corrente intestato anche a lei. E dopo un poco, un giorno lo vediamo e vediamo il bar chiuso e vediamo scendere dal comune lui e lei sposati ormai dal sindaco in persona e accanto la cugina che ride, e già quella risata ad uno lo dovrebbe far insospettire, ma niente. Dal giorno dopo questa al bar non ci va più. La cugina non ci va più nemmeno lei, dal conto corrente cominciano a sparire dei soldi e ti dovrebbe far insospettire tutto questo. E qui un sospetto effettivamente a lui gli viene. La gente non ci andava più nemmeno al bar perché senza quelle due da guardare che ci doveva andare a fare più. Dopo qualche settimana lei se ne va con un altro del paese, uno ricco, più scemo di un pezzo di ghiaccio, ma ricco e bello. La cugina se ne va anche lei e a lui gli rimangono i debiti e i clienti che entrano nel bar e ridendo gli chiedono: «Beh, come sta tua moglie?» «Se n'è andato di nuovo e non ne sappiamo più niente». «Non è andata così per me». «E com'è andata per te?» «Non volevi raccontare la finale?» «La voglio raccontare». «E prima però devo dire una cosa che tu non sai». «E sentiamo». «Dopo aver eliminato il Brasile, i favoriti eravamo di nuovo noi. La finale era Italia-Marocco, ma i favoriti eravamo noi. Un giorno andammo a prenderci una cosa da bere in un bar che si affaccia sul Largo Caverne. Stavamo là, in sei della squadra, a parte il portiere macellaio, i titolari stavamo tutti là. Scherzavamo, dicevamo cose che senza senso. Ogni tanto salutavamo qualcuno che passando ci faceva il suo incitamento. A un certo punto vediamo fermarsi una macchina dalla quale scendono due tizi giovani con i jeans e la maglietta e dietro di loro scende un vecchio con la pancia grossa che noi conoscevamo bene, che tutti quanti conoscevano bene, soprattutto tu. E allora? Questo vecchio viene lentamente verso di noi e prima che arrivi al tavolo il proprietario del bar gli ha già portato una sedia. Si siede tutto quanto sudato e schifo, la pancia grossa, il respiro affannoso e dice: «L'Italia a me mi ha solo dato fastidio. E voi che adesso siete i favoriti, voi adesso dovete mettere le cose in pari. Non vi preoccupate, noi con il Marocco vinciamo sicuro». «Eh no, non hai capito niente allora, scusate? Voi dovete fare proprio il contrario. Io devo scommettere forte, se scommetto su di voi che vinco io? Poco, niente vinco. Io devo scommettere sul Marocco e devo vincere assai, perché devo scommettere assai. Quindi voi andate in campo e perdete, è chiaro?» Tutti lo guardammo e non sapevamo che dire. Lui guardò me. «E se capita un rigore e tu lo segni, lo sai che ti veniamo a fare? Devi sbagliare e tutto va bene. La punizione la tiri fuori, il rigore lo tiri alto. E su azione non vi voglio nemmeno vedere che vi avvicinate alla porta del Marocco. E se state 0-0 verso la fine, mi fate una bella autorete e chiudiamo la storia. È chiaro?» Noi non sapevamo che dire, ma che cosa dovevamo dire? Quella non è gente che scherza. Non è per niente gente che scherza. Scesero in campo per la finale alle 9:15 del 7 luglio. I marocchini sapevano di essere più deboli e speravano comunque in un risultato che li facesse diventare i primi campioni del mondo clandestini della storia. L'Italia, con le magliette azzurre e la scritta «Carni scelte», sembrava davvero una squadra di persone migliori, scelte davvero queste carni. Prima della partita venne a trovarmi il fratello dell'indiana. Saremmo usciti insieme ancora, lei si scusava per avermi trattato male, sarebbe venuta a vedere la partita, ma dovevo diventare campione del mondo, altrimenti lui mi avrebbe impedito di vederla. Vedete com'è? Da una parte la minaccia del malavitoso, perdere o ci faceva fuori. Dall'altra quello del fratello dell'indiana, vincere o non l'avrei più rivista. Verso la mezz'ora del primo tempo, Zagaria fischiò un rigore per noi. Verso la mezz'ora del primo tempo dovetti prendere una di quelle decisioni che ti cambiano tutto. Sul dischetto del rigore ci andò lui. Ci andai io perché io ero il rigorista e perché dovevo decidere che fare. Da una parte la minaccia della malavita, sbagliare il rigore. Dall'altra l'indiana, segnare il rigore. Ero sempre stato uno che non si era mai voluto immischiare. E detto tra noi, quando era capitato di girare la testa dall'altra parte per non avere fastidi, l'avevo sempre fatto. Io non sono mai stato uno di quelli che hanno coraggio, che intervengono contro un delinquente per difendere i più deboli. No, al massimo potevo chiamare i carabinieri, ma solo dopo aver girato l'angolo ed essendo ben sicuro che nessuno mi avrebbe sentito. A me la malavita mi ha sempre fatto paura e io non ci ho mai voluto avere niente a che fare. Ma adesso non era più questione di paura. C'era l'indiana, c'era di mezzo la vita, quel che volevo fare io, quel che speravo. Adesso la paura non era più l'unico sentimento, adesso avevo qualcosa da difendere pure io. Forse è questo che lascia campo aperto a questi delinquenti. Il fatto che noi non abbiamo obiettivi, passioni, certezze, desideri che vogliamo fortemente raggiungere e difendere, ma quando poi li scopriamo, allora la paura deve finire, deve passare. Il malavitoso mi guardò. Io cercai lo sguardo dell'indiana, lo trovai e decisi, avrei tirato e segnato. Non mi interessava la punizione che avrei dovuto subire, che potevano farmi? Massacrarmi di botte? Va bene, ma io sarei stato campione del mondo. E allora andai sul dischetto del rigore, si fece silenzio tutto intorno, feci due passi e mezzo indietro come al solito, Zagaria fischiò, feci passi che mi separavano dal pallone e tirai. Il portiere marocchino intuì la direzione, si tuffò, prese la palla, parato. Rigore parato. Il malavitoso sorrise, l'indiana abbassò gli occhi. Avrei voluto urlare che non mi ero piegato alla minaccia di questi posti, avevo soltanto sbagliato un rigore, non ero un codardo, avevo solo sbagliato, ma il malavitoso rideva e l'indiana nemmeno mi guardava. È vero che in posti come questo sembriamo tutti condannati, le cose già scritte, già dette, già finite prima di cominciare, è vero. che sembriamo rassegnati ai fatti che così funzionano e così funzioneranno sempre. Anche quando si gioca un campionato del mondo clandestino, rimane clandestino alle televisioni e ai giornali, ma ai poteri che governano questi posti, no. Per loro nulla è clandestino, è tutto alla luce del giorno, da governare, da decidere, da imporre. Sembriamo destinati a questo, a rimanere per sempre schiacciati dalla nostra stessa incapacità a provare passioni. Ma una persona è quello che sa difendere ed è quello che sa pure attaccare. Una persona è la somma di tutte le giornate in cui è stata zitta. E l'urlo che prima o poi viene fuori è proprio l'affermazione di una vita intera. È come dire, eccomi di nuovo qua, ma sembra che in questi posti questo non potrà mai accadere. La paura, la forza di questi, il silenzio che ti fanno intorno, la vergogna. Ed è così che abbiamo sbagliato tutti i rigori da 300 anni in qua. Tutti li abbiamo sbagliati. E ne hanno fischiati, ne hanno fischiati di nuovi. Ma abbiamo sempre avuto paura ad essere vivi. Sempre meglio sbagliare che assumersi una responsabilità. Fino a quando, nel secondo tempo, capitò una punizione al limite dell'area. Il malavitoso sapeva che ormai avrei tirato alto, che aveva, come aveva consigliato. L'indiana sapeva che dovevo segnare per continuare a vederla. Tutti gli altri non sapevano niente, solo i miei compagni di squadra. Uno di loro venne da me e mi chiese: «Che fai?» «Segno, che faccio?» «E poi vediamo». E allora tirai una punizione da sopra la barriera bassa dei marocchini, verso il palo alla destra del portiere. La palla entrò, 1-0 per noi. La folla intorno prese a urlare carni scelte, e il malavitoso era verde, e l'indiana era bellissima, e nessuno dei miei compagni esultò. Io soltanto correvo come un matto avanti e indietro, senza più paura di niente. È strano come si festeggia un campionato del mondo quando il mondo non ne sa proprio niente. Quella sera fummo invitati a cena dal macellaio che giocava in porta, in campagna. Lui portò non so quanti chili di salsicce e carne da arrostire. Suo figlio Dino si mise alla brace, e ogni volta che portava una scodella di carne già arrostita, calda e ben salata, si sentiva un privilegiato perché serviva da mangiare ai campioni del mondo. Suo padre era macellaio, campione del mondo. Uno aveva una rivendita di macchine usate, ma era campione del mondo. Tutti gli altri erano disoccupati, ma erano campioni del mondo. L'indiana era già pronta, poco profumo, come le avevo chiesto, e la Seat Ibiza con dentro un campione del mondo la aspettava. Avevo finito i calzini quella sera e li presi dal cassetto di mio padre, che disse: «Potete andare dove volete, fare quello che volete, ma se vi manca qualcosa, sempre qua venite, campione del mondo dei miei coglioni, trovati un lavoro e lascia l'indiana, moglie vuoi, te l'avevo promesso», le dissi. Lei sorrise di quei sorrisi che ti risolvono la vita intera. Addirittura. Addirittura, sì, adesso devi stare zitto e ascoltare. L'Ibiza si mise in moto al primo colpo. E c'era un bel vento quel giorno di luglio, e c'era il mare a pochi chilometri, e c'era un bacio ad aspettarmi su quella spiaggia, il primo bacio tra Italia e India, con gli occhi chiusi e nelle orecchie il rumore del mare, e gli occhi ancora chiusi e il profumo dell'India su tutta la spiaggia, e gli occhi chiusi e il rumore di una macchina che si ferma, il bacio più bello della mia vita, lungo un'eternità di qualche secondo, il ricordo che non andrà mai via, il corpo di lei per la prima volta così vicino, e i rumori di passi che scendono sulle pietre, e gli occhi ancora chiusi a goderci io la sua eternità e lei la mia, e una mano sulla mia spalla, e un calcio in faccia, e poi più niente. Quando rinvenni, era sera inoltrata, eravamo in campagna e davanti a me c'erano il malavitoso a cui non avevo obbedito, i due giovani in jeans e maglietta, l'indiana per terra legata con le mani, senza il vestito, senza niente addosso. Intorno era buio e non si vedevano luci da nessuna parte. «Che le avete fatto?» «Niente, niente, stavamo aspettando che ti svegliavi». Le misero un fazzoletto sulla bocca e solo quando provai a reagire scoprii di avere mani e piedi legati anch'io e che non potevo alzarmi né fare niente. «Fermi, non la toccate, state fermi! I rigori si sbagliano e le punizioni si tirano alte. Vedi adesso, coglione!» Fui costretto a guardare i jeans di uno abbassarsi e a sentire le risate di quell'altro e a vedere le gambe di lei che provavano a chiudersi e a resistere, a sentire le sue urla trattenute dal fazzoletto che le avevano messo in bocca, e vidi lui che le entrava dentro, e poi l'altro, e lei che smise di urlare e piangere, mi sembrava morta, e io non sapevo dove mettere le lacrime, non sapevo se sarei sopravvissuto a quella vista, non sapevo niente di niente. Se ne andarono e ci lasciarono là, lei svenuta e nuda, io in lacrime e legato. Quando l'ho sposata, mio padre continuava a dire «mogli e buoi dei paesi tuoi». L'ho sposata perché ce lo siamo meritati. Al matrimonio venne tutta la squadra, ma sembrava che nessuno volesse ridere, lo sapevano. Non sapeva niente nessuno. Al matrimonio lei aveva un vestito tutto colorato e tu stavi tutto stretto nell'abito scuro di papà. Che matrimonio strano. Un campione del mondo e un'indiana che annegava negli occhi la gente. Non si sapeva che musica suonare, non si sapeva che cosa mangiare, non si sapeva proprio niente. Nessuno sapeva niente. La madre di lei piangeva, ma sbagliava il motivo. Non riuscivo a farla ridere, non riuscivo a fare niente. Era come se la sporcizia di quella sera non se ne fosse mai andata. Al matrimonio di mio fratello sembrava veramente che ci fosse qualcosa di morto, un retrogusto, un sapore alla fine della bocca, amaro, come qualcosa che non se ne voleva andare. Io mi ricordo di aver visto mio padre per la prima volta passarsi un fazzoletto sopra gli occhi e dire che era raffreddato. Voi non c'eravate e non avete visto mia madre guardarlo come se fosse l'ultimo giorno. E perché non mi hai detto niente? E che te lo dicevo a fare? Io lo so chi sono, ma la vedevo io con quelli. È proprio per non fartela vedere con quelli che per questo non ti ho detto niente. Cos'è quella? Toh, leggi, è una lettera. Io me ne dovevo andare, scusa, ma ogni giorno per strada avevo paura di incontrarli di nuovo. E una volta uno l'ho visto, nel negozio, stava pagando alla cassa e mi ha guardato e si è messo a ridere. Che devo fare? Io non posso ricordarmi tutto. Io le cose me le devo dimenticare. Non sono andata via da te, sono andata via da quelli. Ti aspetto. Che dovevo fare? E tu che fai tu? Io non c'entro più niente con quella maglia. Quelli che le hanno fatto questo hanno addosso la stessa maglia, gli stessi colori. Io parto. Io non sono campione del mondo. Il problema di questi posti è che non si capisce mai quando hai vinto e quando hai perso. Nel calcio ci sta il fischio finale. Quello arriva e si sa. Qua invece come si capisce se hai perso? Forse pure quello è eliminazione diretta. Povertà contro educazione, 2-0. Delinquenza contro povertà, 3-1. Violenza contro delinquenza, 2-1 ai tempi supplementari. Campione del mondo la violenza, seconda classificata la delinquenza, medaglia di bronzo la povertà e pace all'anima nostra.